adesso cosa vuoi? Vieni a leccarti i lividi, convincermi se puoi che non ne guarirai mai. Vederti sai cos'è? Ricordare vita, ma ad ogni tuo sorriso